arrivederci. Dammi la mano e sorridi senza piangere. Arrivederci per una volta ancora, è bello fingere. Abbiamo sfidato l'amore quasi per gioco, ed ora fingiamo di lasciarci soltanto per poco. Arrivederci, esco dalla tua vita, salutiamoci. Sarà l'addio, ma non pensiamoci. Con una stretta di mano, da buoni amici sinceri, ci sorridiamo per dire arrivederci. Arrivederci, esco dalla tua vita, salutiamoci. Arrivederci, questo sarà l'addio, ma non pensiamoci. Con una stretta di mano, da buoni amici sinceri, ci sorridiamo per dire.